Il programma è davvero molto articolato e complesso e appunto in realtà è cominciato già da diversi giorni, perché il nostro progetto è iniziato il 18 settembre, proprio il giorno in cui 70 anni fa si apriva il processo a Walter Reder, che è stato definito appunto il boia di Marzabotto. Quindi ricordando e studiando tutte le carte del processo abbiamo poi deciso di fare il 3 ottobre nel pomeriggio un evento artistico, una performance che rientra all'interno del progetto Nidi di Ragno, che è un nostro progetto fatto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la legge sulla memoria, che in qualche modo ricorderà tutto l'iter che è stato fatto dai cittadini di Marzabotto quando Walter Reder ha chiesto loro il perdono. E quindi in qualche modo ripercorreremo le tappe non solo del processo ma anche di questa richiesta di perdono e del sindaco di allora Bottonelli, che chiamò i sopravvissuti e i testimoni a esprimersi, a esprimere una volontà di perdono appunto a Walter Reder. In realtà questo fa parte di un progetto più ampio che stiamo conducendo insieme all'Università di Colonia, in particolare a Carlo Gentile e Elena Pirazzoli, che è un progetto che si propone proprio di mettere insieme le testimonianze proprio dei perpetratori, quindi di coloro che in qualche modo sono stati non solo i colpevoli ma che hanno aiutato e che in quel momento hanno eseguito degli ordini, proprio perché riteniamo fondamentale accostare alla ricerca ovviamente dei testimoni e di chi è stato vittima, ma anche la memoria di coloro che in qualche modo hanno partecipato, e quindi capire quali sono le condizioni in cui si creano delle persone che sono in grado di eseguire degli ordini tanto terribili e orribili senza porsi nessun tipo di problema morale o etico. Quali sono gli altri appuntamenti che ci sono, e poi anche una riflessione in generale sulla memoria e sull'oblio, quindi anche la questione appunto dei sopravvissuti che purtroppo hanno una certa età, quindi bisognerà capire come ricordare, come trasmettere la memoria. Grazie al teatro, grazie all'arte, si riesce sempre in qualche modo a riportare a galla, a riportare in vita le parole, ma non solo le parole ma anche i silenzi che dalle testimonianze che abbiamo registrato sotto vari formati, sia dal punto di vista giornalistico ma anche gli atti del processo, le trascrizioni dei verbali. C'è stato uno studio che abbiamo fatto nel corso di questi mesi insieme appunto a Elena Pirazzoli e a Carlo Gentile, che è stato proprio quello di andare alle fonti di tutte queste testimonianze. Il processo del 51 è una miniera veramente ancora tutta da esplorare di materiale che ti porta all'interno del processo a pochi anni da quell'avvenimento, perché stiamo parlando del 51, e questo lo facciamo ovviamente grazie a grandi storici che hanno lavorato su questo. Pensiamo a tutto il lavoro che ha fatto Toni Rovatti sullo studio del processo del 1951 e sulla strage in generale. Gli appuntamenti infatti del 2 ottobre, cioè di sabato, sono molto importanti. Alle 17.30 alla Scuola di Pace nell'Aula Magna ci sarà proprio un convegno, un seminario con Toni Rovatti ed Elena Pirazzoli, dove si parlerà proprio dei processi, della memoria e di come questa a 70 anni di distanza agisce ancora oggi e quali possono essere le novità anche metodologiche di studio. Viene presentato un sito web del progetto, le stragi nell'Italia occupata dal 43 al 45, e questo diciamo è molto importante perché fissa in un sito tutta una serie di materiali nuovi, dalle schede dei vari soldati analizzate da Carlo Gentile a tutte le trascrizioni degli atti del processo, che saranno finalmente online e disponibili a tutti. E questo sarà un prologo alla giornata successiva della domenica 3 ottobre, quando alle 15 partirà questa nostra performance dalla piazza di Marzabotto e che attraverserà il paese fino al teatro. Durerà un paio d'ore, mi raccomando, perché la prenotazione è obbligatoria per tutte le norme anti-Covid, quindi abbiamo un limite a 100 posti, quindi vi consigliamo di andare comunque a prenotare sul sito archiviozeta.eu.